Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Il numero per intervenire è sempre quello, il 349-238-6666, per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Sarete oggi con me, poi domani torna Sebastiano Barisoni. Di che cosa parleremo oggi? Ovviamente il tema principale di questa giornata, anche se lo affronteremo dopo le 18, è quello della Brexit. È finalmente arrivato, come già vi ha raccontato GR24, come vi abbiamo raccontato nell'arco della giornata, è arrivata l'attivazione del famoso articolo 50, quello che porterà poi a delle trattative che dovrebbero durare un paio d'anni e che sono le trattative appunto per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. È una giornata nella quale l'ambasciatore britannico a Bruxelles ha consegnato la lettera di attivazione dell'articolo 50 nelle mani del Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk. Ci sono state le dichiarazioni della Premier Theresa May, delle dichiarazioni nelle quali ha parlato di un futuro luminoso per la Gran Bretagna e ha anche detto rimaniamo in Europa, e insomma, c'è poco da dire su questo, cioè nel senso lo rimaniamo fisicamente anche se ce ne andiamo dall'Unione Europea. Ha anche dato qualche rassicurazione dal lato del futuro dei cittadini europei che si trovano in Gran Bretagna per lavoro, anche se, come sapete, è proprio sulla libertà di movimento delle persone che ha giocato tantissimo la campagna per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Dunque vedremo come andrà. Certamente si prospettano due anni complessi dal punto di vista delle trattative con Bruxelles, che evidentemente non ha intenzione di fare sconti, forse anche nella volontà di dare un esempio, e dall'altra parte anche internamente, perché ci sono al momento due fronti aperti. Uno sicuramente è il più importante, è quello con la Scozia. Nicola Sturgeon, la premier scozzese, ha detto abbastanza chiaramente che vuole riproporre il referendum, e anzi è stato approvato dal Parlamento scozzese la riproposizione del referendum per l'indipendenza, che fallì nel 2014. Ora, dato che la Scozia ha votato a larga maggioranza per rimanere nell'Unione Europea, Sturgeon è convinta, così come il Parlamento scozzese è convinto, che in questo caso il referendum possa vincere. Dall'altra parte, la May sta cercando di placare le acque, evitare in sostanza che questo referendum si tenga. Ovviamente è una mossa prevalentemente politica quella di Sturgeon, è una mossa che potrebbe portare di fatto alla disgregazione del Regno Unito, una Scozia che ha di suo le sue difficoltà, perché gran parte dei ricavi fiscali della Scozia arrivano dal petrolio del Mare del Nord, e con i prezzi del petrolio a questo livello e con la necessità di decommissioning, come si dice, ossia di smantellamento delle piattaforme petrolifere vecchie, insomma la situazione non è esattamente facile. Forse questo è un momento, sostiene qualcuno, nel quale alla Scozia converrebbe rimanere nel Regno Unito, però fatto sta che il punto politico c'è ed è un punto politico importante. Dall'altra parte poi c'è anche l'Irlanda del Nord, dove il partito indipendentista è arrivato nelle ultime elezioni ad un passo dal partito unionista, da quelli che vogliono rimanere nella Gran Bretagna, e la leader del Sinn Féin ha detto che vorrebbe un referendum per l'unificazione con l'Irlanda. Come vedete è una situazione piuttosto complessa anche all'interno del Regno Unito e non solamente nei rapporti con l'Europa. E poi certo c'è l'Europa, che a fronte della Brexit riflette sul suo futuro, forse ancora con un po' di lentezza. Questo evidentemente sarà il nostro tema principale. Altri fronti che affronteremo sono quelli italiani. In ore nelle quali si discute della manovra correttiva, si discute del DEF, il documento di economia e finanza, che poi è prodromico a quella che sarà la manovra dell'anno prossimo, la manovra per l'anno prossimo, Arrivano i dati sull'evasione fiscale e contributiva, quelli sostanzialmente ufficiali forniti dalla commissione bicamerale proprio che si occupa di evasione fiscale e contributiva, che è presieduta dal professor Giovannini, che sarà nostro ospite, che indicano l'evasione fiscale e contributiva in circa 110 miliardi, concentrata in tante piccole cose, anche in grandi cose, ma anche in tante piccole cose. Per esempio, l'evasione contributiva è più o meno del 30% per quanto riguarda colf e badanti. Ne parleremo con Giovannini e vedremo anche quali possono essere le prospettive di modifica delle normative, visto che tutti i tentativi fatti negli anni anche di inasprire un po', no, le pene, le sanzioni per l'evasione fiscale, evidentemente, se i dati sono questi, non hanno funzionato un granché. È vero che questi dati sono del 2014, quindi quello che vorremmo capire anche da Giovannini è se qualcosa è migliorato negli ultimi 3 anni oppure no, in termini appunto di adesione dei cittadini, per così dire, di compliance, per così dire. Infine, le banche è un tema che resta sullo sfondo, ma resta molto vivo, e in questo caso riguarda soprattutto le banche Veneto Banca e Popolare Vicenza. Il tema è quello innanzitutto del fatto che ieri Popolare Vicenza ha presentato i suoi conti indicando una maxi perdita che si aggira intorno ai 2 miliardi, 1,9 miliardi per l'esattezza, e poi ci sono le adesioni all'offerta di transazione, come vi abbiamo raccontato molto spesso anche da questi microfoni, così come dalle colonne del Sole 24 Ore. È successo che le azioni tanto di Veneto Banca quanto di Popolare Vicenza sono quelle che avevano in mano gli azionisti, sono crollate a fronte degli aumenti di capitale ai quali sono state costrette queste banche, e c'è stato un tentativo di transazione con una serie di azionisti. Le adesioni sono state abbastanza alte, non quanto avrebbero voluto i vertici di Vicenza e Veneto Banca, ossia sono state al 68,7 per Vicenza e al 67,6 per Veneto Banca. L'obiettivo di Vicenza era l'80%, però più o meno si pensa di chiudere così, e ci occuperemo dunque anche di banche in un momento delicato e che continua ad essere, stare al commento che firma oggi Alessandro Graziani sul Sole 24 Ore, e con un tema che resta anche qua sullo sfondo, ma nemmeno troppo, che è quello del Monte dei Paschi e della lentezza, il tempo che ci si sta mettendo a dare il via libera a tutte le operazioni che dovrebbero portare al salvataggio di Monte dei Paschi, e con rischi di perdita di valore, di ulteriore fuga di correntisti, eccetera, eccetera. Quindi il tema, c'è anche un tema di meccanismi che non funzionano un granché. È di pochi istanti fa, o meglio, una ventina di minuti fa, la dichiarazione del ministro dell'economia Piercarlo Padoan in Question Time alla Camera, o meglio di Anna Finocchiaro, ministro per i rapporti con il Parlamento, che risponde per conto di Padoan. Dice: l'iter per la concessione degli aiuti di Stato alle banche venete è ancora in una fase iniziale, mentre Monte dei Paschi si trova in uno stato avanzato del procedimento che condurrà alla ricapitalizzazione precauzionale. Detto ciò, appunto, saremo tutti gli ok di Bruxelles, della BCE, che appunto tardano un po' ad arrivare, come vi abbiamo raccontato. Questi i temi di giornata. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, le notizie in breve di oggi. Giusto per rispondere subito, non ho detto finalmente viene attivato l'articolo 50 perché non vedevo l'ora, ho detto finalmente perché dopo tanto discutere finalmente siamo arrivati al punto decisivo, quello formale dell'avvio dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, cioè era un finalmente neutro, non posizionato. Iniziamo come sempre dalle materie prime. L'oro stabile a 1255 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, Abbiamo una risalita tanto sul WTI quanto sul Brent. Il WTI con consegna a maggio a $49.07 al barile, questo è il prezzo al momento. Per quanto riguarda il Brent invece siamo a $52.06 al barile, sempre intorno a quella quota, comunque intorno ai $50. E a proposito di energia, c'è stata la firma da parte di Donald Trump, ormai lo sapete, di un decreto che rivede in maniera piuttosto drastica le norme per la lotta ai cambiamenti climatici firmate da Barack Obama. Rimetteremo i minatori al lavoro, dice Trump, con me si mette fine alla guerra al carbone. Sempre dagli Stati Uniti, il presidente della Federal Reserve di Chicago, Charles Evans, si dice a favore di uno o due altri aumenti dei tassi nel 2017. La Fed dice ha fatto progressi nel centrare gli obiettivi del suo doppio mandato, i fondamentali dell'economia sono buoni, il mercato del lavoro, aggiunge, è in salute. C'è una notizia che arriva da BlackRock, che è il maggior asset manager del mondo, con in portafoglio 5.100 miliardi di dollari di asset tra azioni, obbligazioni e via dicendo. Cosa dice BlackRock? Che per gli esseri umani battere il mercato con le tradizionali scommesse è sempre più complicato e per questo ha annunciato una maggiore, per così dire, enfasi sui computer, cioè una maggiore spinta sugli algoritmi. Saranno loro a scegliere i titoli, decisione che si tradurrà, dice BlackRock, nella perdita di posti di lavoro e legata alle difficoltà della sua divisione per la scelta dei titoli indietro rispetto alle altre di BlackRock. Come sapete c'è un grande dibattito internazionale su questo tema, esattamente sull'uso dei computer, sull'arrivo di algoritmi intelligenti, di algoritmi che imparano e che sanno fare le scelte meglio di noi, anche in professioni che prima si pensavano intoccabili. A proposito di Brexit, ma nemmeno troppo a proposito di Brexit, l'antitrust europeo ha deciso di bloccare la fusione tra il London Stock Exchange, cioè la borsa inglese, e la Deutsche Börse. Questa avrebbe ridotto in modo significativo la concorrenza e creato un monopolio di fatto nell'area cruciale degli strumenti a reddito fisso. Sono parole della commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager. Una decisione, dice Vestager, non legata alla Brexit e al fatto che tra due anni Londra potrebbe essere fuori dall'Unione Europea. Il Regno Unito è dentro l'Europa finché non lo sarà più. Avviare i negoziati è solo l'inizio del processo, non è la fine, aggiunge Vestager. Beh, insomma, però, una notizia così in una giornata come oggi, l'idea che qualcosa di politico ci sia, c'è. Di Brexit abbiamo detto e ci torneremo più avanti. May dice lasciano la Gran Bretagna lascia l'Europa secondo il volere del popolo, è il momento di essere uniti, non ci saranno negoziati con la Scozia sul referendum. E poi ne parleremo, oggi c'erano anche in missione alcuni italiani a Londra, c'era il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, quello degli esteri Alfano, il presidente della regione Lombardia Maroni, il sindaco di Milano Sala, per parlare di, insomma, per attirare investimenti verso l'Italia, in particolare verso Milano. Infine, altre due notizie prima prima di andare ai 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. La prima riguarda l'Europa che tanto ci fa discutere, anche sul terremoto, perché la riunione degli ambasciatori dei 28 ha rivisto al ribasso la proposta della Commissione Europea che consentiva il finanziamento al 100% con fondi europei delle spese di ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto e altre calamità naturali, portandolo al 90%, una percentuale alla quale l'Italia si è opposta. La quota nazionale deve essere del 10%, e forse non era il momento giusto per fare un'operazione di questo genere, anche a livello di immagine per l'Europa, dico. Per quanto riguarda l'Istat, abbiamo una fiducia in risalita per le imprese, siamo ai massimi dal gennaio 2016. A questo sono dedicati i 100 secondi dell'economia di oggi, che vanno in onda anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. A marzo l'indice di fiducia dei consumatori e delle imprese ha fatto uno scatto importante. Per i consumatori si è invertita una tendenza al ribasso che durava da gennaio. In generale si percepisce una situazione economica più positiva e si ha un po' più di attesa ottimistica verso il futuro del paese, anche se, disaggregando il dato sulla percezione della situazione economica personale e corrente, invece la percezione cambia e indica un lieve peggioramento, sono le stranezze della statistica. Per le imprese invece la risalita era cominciata già a gennaio e a marzo l'indice ha raggiunto quota 105,1, il dato più rilevante dal gennaio dello scorso anno. All'interno del mondo delle imprese poi è straordinaria la performance delle industrie manifatturiere, che hanno portato la percezione della fiducia a un livello mai così alto dal 2007. La crescita è dovuta a un miglioramento dei giudizi sugli ordini, è il quarto mese consecutivo in progresso, e sulle attese di produzione, dove il saldo delle risposte date dal campione delle aziende intervistate è positivo, è il più elevato dal novembre 2015. Lo scatto più vistoso è per i produttori di beni strumentali, che probabilmente scontano i primi effetti degli incentivi varati dal governo con il super ammortamenti per i nuovi investimenti in tecnologie digitali e in automazione, particolarmente attraenti soprattutto per i beni di industria 4.0. È il segno che quando una politica industriale affronta temi strategici in modo strutturale e non con la logica del fuoco fatuo dei bonus, i risultati si vedono e ne beneficia tutto il paese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Qualcuno ci scrive al 349-238-6666 via WhatsApp, dice: pensa se un giorno i robot sostituiranno anche gli speaker radiofonici o giornalisti radiofonici. Bah, è probabile anche che succeda, però l'ascoltatore ne vede, come dire, la deriva anche positiva, se vogliamo, se gli ascoltatori continueranno a insultarci o accusarci di essere di parte, non credo. Il vostro robot è di parte. Allora, questa mattina l'audizione del Presidente della Commissione per la redazione della relazione annuale sull'economia sommersa e l'evasione fiscale, che altri non è che il professor Enrico Giovannini, che è in linea con noi. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Economista all'Università di Tor Vergata, ex Presidente dell'Istat, ex Ministro del Welfare, come sapete. Allora, professor Giovannini, 110 miliardi tra evasione fiscale e contributiva, con, qua devo dire, forse poca... poca sorpresa, no? Il fatto che questa differenza si concentra soprattutto nell'IRPEF dei lavoratori autonomi, ma insomma mi sembra questo abbastanza normale. E in tutta una serie di cose, lei ha citato una serie di dati, una differenza del 30% di tax gap, così si chiama, sulle badanti, 26% nel commercio, in crescita tra il 2012 e il 2014. Questo il quadro generale. Inizierei, professore, chiedendole se vede segnali di miglioramento negli ultimi tre anni, anche se chiaramente i dati, come dire, probabilmente non sono ancora disponibili o sono in elaborazione. L'ammontare di evasione cresce in termini assoluti dal 2012 al 2014 da 107,6 a 111,6 miliardi, quindi uno potrebbe dire le cose non vanno meglio. in percentuale la situazione passa dal 23,6% della differenza tra quello che bisognerebbe pagare e quello che invece si paga rispetto alla base imponibile, dicevo, dal 23,6 al 24,8. Ora, è vero che negli ultimi due anni c'è stato un aumento del cosiddetto recupero dell'evasione, grazie anche a interventi straordinari come la cosiddetta voluntary disclosure, cioè la possibilità di riportare in Italia dei capitali detenuti all'estero. Il punto è che al di là dei decimali, 110 miliardi all'anno di evasione sono è tanti, un numero sono tanti, mostruoso sono tanti. Ed è un numero che di fatto non riesce a cambiare in modo radicale. Tra l'altro vorrei ricordare che la commissione a che punto presiedo e che è stata istituita dalla delega fiscale cosiddetta che ha riformato una serie di cose nel campo fiscale nasce da un'idea del 2011 in cui un'altra commissione che avevo presieduto diceva tutti i proventi della lotta all'evasione devono essere usati per ridurre le aliquote su chi le tasse le paga. Invece il modo con cui il governo poi e il Parlamento hanno varato questa delega dice che se anche c'è un recupero dell'evasione il governo e il Parlamento possono decidere di usare una parte di questo gettito in più per ridurre il deficit o il debito. In questo modo non si crea quell'effetto virtuoso che avevamo immaginato inizialmente, una sorta di macro conflitto di interesse, sì, per cui più si recupera evasione e meno i cittadini onesti, sì, pagano le tasse. E certo, da una parte bastono, ma dall'altra parte appunto taglio le tasse, il che il taglio delle tasse poi, ricordiamolo professore, mediamente aumenta anche la fedeltà fiscale, no? Ma questo è quello che si dice, in realtà non c'è nessuna evidenza particolarmente forte che all'abbassare delle aliquote improvvisamente la gente laddove in particolare si evade abbia invece voglia di pagare le tasse. È evidente però che se a fronte di tasse alte si hanno anche servizi pubblici scadenti, dentro le persone è più facile crearsi un alibi. Certo, e che è il caso, il caso tipico italiano, appunto, servizi scadenti per tasse molto alte. Le voglio chiedere questo anche, professore, come li calcolate questi dati? Perché no, è il solito tema, è un po' quello che si dice anche per quanto riguarda la corruzione, sulla quale c'è stato un grande dibattito su questa cifra che circola e che in realtà non è mai stata confermata, è stata citata di striscio, no? Quella dei 60 miliardi. Di fatto questa è economia sommersa, no? Anche questo, il non pagamento delle tasse, il non pagamento dei contributi. E come fate a calcolarlo? Non le chiedo di entrare nel tecnico, naturalmente, no, però di darci un'idea. È molto semplice da un certo punto di vista. Si comincia dai dati ufficiali dell'Istat che nel PIL, nel prodotto interno lordo, già valuta l'economia sommersa e la valuta nel circa l'11% del PIL e quindi stima a partire dai dati statistici ma anche tecniche che pongono l'Italia all'avanguardia in questo campo anche una componente appunto non osservata, non dichiarata. A partire da questo ammontare, calcolando, applicando le aliquote di legge, si va a vedere quanto si dovrebbe pagare. E poi si calcola questo tax gap, che è la differenza tra quanto si dovrebbe pagare e quanto si paga. Ecco, i metodi che abbiamo utilizzato sono molto avanzati, con noi lavora l'Agenzia delle Entrate, la Guardia, sì, di Finanza e i migliori esperti in questa materia e anche a livello internazionale possiamo dire che siamo all'avanguardia, forse perché siamo all'avanguardia dell'evasione, abbiamo tanti studiosi che si applicano anche a fare questo tipo di calcoli. Sì. È un dato ufficiale e questo fu proprio all'origine della creazione di questa commissione, perché così si fa un po' piazza pulita di tanti numeri che in questi circolano e a volte sono casuali. Un'ultima domanda le voglio fare, professore, per punti. Voi avete anche il compito, oppure lei ci vuole indicare qualche idea di policy, di politica che si possa attuare per ridurre questo tax gap da 110 miliardi? Il nostro compito è quello di valutare come le azioni del governo impattano sull'evasione. Noi siamo stati costituiti durante l'estate dell'anno scorso, dovevamo presentare questo rapporto entro settembre, abbiamo fatto un po' i miracoli e quindi stiamo lavorando, tra l'altro ci incontriamo proprio dopodomani mattina, su questo tema in maniera tale da passare anche a questa seconda fase del nostro lavoro, cioè la valutazione. Un esempio per tutti, l'aumento, a cui parlo a titolo personale, l'aumento del limite al contante, all'uso del contante, è stata una misura che ha molto fatto discutere, un po' in controtendenza con le politiche degli anni precedenti. Ecco, proveremo a fare delle valutazioni statistiche di questo tipo di politiche. Allora grazie al professor Enrico Giovannini, economista all'Università di Tor Vergata, presidente della Commissione per la redazione della relazione annuale sull'economia sommersa e l'evasione fiscale, per essere stato con noi. Le auguro buonasera, adesso ci fermiamo un attimo e poi andiamo ai mercati. Avete ragione, colpevolmente non ho dato gli indici in apertura, indici negativi, FTSE MIB meno 0,27%, FTSE All Share meno 0,32%, il resto d'Europa è positiva, Francoforte più 0,44%, Parigi più 0,38%, Londra più 0,29%, ne parliamo tra un attimo. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Ha ragione l'ascoltatore, visto che è di robot che stiamo parlando praticamente dall'inizio, che un robot non si sarebbe dimenticato di dare gli indici, mentre raccomando maggiore cautela all'ascoltatore che dice anche oggi Londra più 0,29%, come vedi la Brexit conviene, come suggerirei di non basarsi sull'andamento di una giornata o anche di una settimana, mano anche di un mese, di un indice di borsa, per valutare come finirà un processo che durerà 2 anni. Dovremo vedere come andrà a finire effettivamente, che cosa otterrà la Gran Bretagna all'Unione Europea, cosa l'Unione Europea dalla Gran Bretagna, cosa succederà anche nei prossimi mesi con le varie elezioni, a partire da quelle francesi, passando per, o meglio, a partire da quelle francesi e poi arrivando a quelle tedesche. Siamo, visto che di indici si parlava, giusto appunto, ai mercati, con Guido Maurino di Radio Coro, il Sole 24 Ore. Guido, buonasera. Buonasera. Allora, giornata, come si diceva, positiva in gran parte d'Europa, compresa Londra, più 0,32%, Francoforte che guadagna lo 0,44%, Parigi lo 0,45%, Milano invece negativa, come mai? Ma Milano, come anche Madrid, ha subito un po' di vendite che hanno riguardato soprattutto paesi più periferici. In più, per quello che riguarda Milano, ha risentito un po' di alcune prese di beneficio sul settore bancario che abbiamo visto oggi. Il settore bancario nell'ultimo mese, diciamo da 20 febbraio in poi, aveva guadagnato molto, aveva trainato anche appunto il listino di Milano. Oggi invece sono arrivate un po' di vendite che hanno penalizzato il listino, lo abbiamo visto su Unicredit che ha ceduto l'1,24%, anche Intesa San Paolo ha ceduto lo 0,79%, Biperbanca meno 1,86%, ed è stato il titolo peggiore fra quelli del listino principale. Negativa anche Atlantia, meno 1,84%, Italgas meno 1,84%, Uxnet a Porte meno 1,38% e Moncler meno 1,32%. Ti porterei proprio su Moncler, Guido. Sì, per quello che riguarda Moncler, che ha ceduto l'1,32%, il titolo sostanzialmente è rifiata un po' rispetto ai massimi toccati ieri. Proprio ieri c'era stato un report di una banca d'affari che aveva sottolineato come il titolo potesse raggiungere addirittura i 23 euro. Oggi però ci sono state un po' di vendite perché comunque il titolo continua a trattare sui suoi massimi storici. È positivo il fatto che sia riuscito a mantenere quota 20 euro, chiuso a 20,23 euro, però diciamo che dopo una serie di record, di rialzi, era forse fisiologico attendersi qualche vendita e qualche presa di beneficio da parte degli operatori. E questo appunto per quanto riguarda Moncler. Ti porterei nella parte positiva del listino, iniziando dal titolo migliore di oggi, che è Leonardo Finmeccanica, più 1,84%. Sì, questo caso si tratta di una commessa che ha annunciato ieri Leonardo per fornire degli elicotteri al Pakistan, che ha consentito al titolo di guadagnare l'1,84% e di essere il titolo migliore del FTSE MIB. Si tratta di una notizia positiva in sé, ma anche in prospettiva, perché questo gli elicotteri sono un nuovo prodotto di Leonardo Finmeccanica che sta andando molto bene, sta incontrando il favore del mercato. A questo si aggiunge il fatto che la società è anche fra virgolette quella meno cara guardando i multipli rispetto alle altre società che si occupano di difesa e di del settore militare in generale, per cui questo ridà un po' di fiato a Leonardo. E visto che siamo più o meno sul settore, Guido, c'è una appena quotata che sta facendo faville al momento, no? Sì, una piccola società di ingegneria aeronautica, una società lombarda, si è quotata ieri, ha fatto al debutto più 40%, anche oggi ha guadagnato quasi il 20%, ha chiuso a più 18,9%. È una società che sta crescendo rapidamente e su cui evidentemente il mercato punta. Basta pensare che nel 2015 aveva fatto ricavi per 8,1 milioni e solo nel primo semestre del 2016 ha fatto ricavi per 7,9 milioni, quindi diciamo che in sei mesi ha fatto quasi il fatturato che aveva fatto l'anno prima in 12. Il mercato scommette su questa società anche perché guarda ad acquisizione, una crescita, un piano di sviluppo che è giudicato credibile. Visto che se ne è parlato ieri proprio da questi microfoni, Carige? Carige oggi ha guadagnato lo 0,76% all'indomani dell'assemblea. Il mercato sembra apprezzare le parole dell'amministratore delegato, che ieri ha anche indicato un pochettino la strada per il rilancio della banca. C'è questo aumento fino a 450 milioni di euro che dovrà essere varato entro l'estate, un aumento che servirà soprattutto per poter cedere più tranquillamente le sofferenze e non per coprire delle perdite operative, e quindi oggi il titolo ha guadagnato anche in controtendenza, direi, rispetto a un settore bancario che oggi non si è mosso bene. Bene anche Generali più 0,82%, Buzzi Unicem più 0,81%, Saipem più 0,73%, Ferrari ancora bene, guadagna mezzo punto percentuale insieme a Brembo altrettanto, Fiat Chrysler altrettanto, cioè lo 0,49%, bene anche Eni più 0,47%, CNH più 0,45%, Mediaset e UbiBanca guadagnano uno 0,4%, uno 0,2%. Enel e Mediolanum, Banca Mediolanum e Unipol Sai, Banca Generali più 0,08%, e in fondo all'Isino, l'abbiamo già detto, ci sono molti bancari, giù oggi anche Luxottica che c'è dello 0,68%, Terna lo 0,65%, Tenaris lo 0,64%, e BPM abbiamo detto giù di mezzo punto percentuale, Mediobanca che cede lo 0,4%. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Ce lo diciamo tra noi e andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Focus Economia. Ed eccoci dunque a parlare adesso di banche, e non prima di aver nuovamente risposto a qualche ascoltatore. Allora, è comprensibilissimo che una persona faccia una battaglia politica di qualche tipo. Questa battaglia politica può essere una battaglia politica contro l'Europa, a favore di un destino italiano simile a quello della Brexit. Ci sta, insomma, c'è appunto libertà di espressione e di pensiero, però stiamo ai fatti e ribadisco, non possiamo prendere l'andamento degli indici di borsa per giudicare se un'operazione politica è stata positiva oppure no, anche perché questa operazione politica non si è ancora realizzata. Qualcuno mi dice, negli ultimi tre mesi Milano ha perso il 25%, la borsa inglese ha guadagnato il 5%. ho capito, va bene, sarà pur così, ma stiamo parlando di situazioni completamente diverse. Parliamo di un mercato come quello britannico, una borsa come quella londinese, che è la seconda se non la prima al mondo, con quotazioni di aziende di tutti i tipi, con un mercato di servizi finanziari pazzesco, in una città che continua ad attrarre investimenti e come dire, anche capitale umano. È una situazione lievemente diversa, parliamo del posto che è al centro degli scambi finanziari mondiali. Milano è, con tutto il bene che le vogliamo, una piazza periferica. Così funziona, non diversamente. Fabio Pavesi, del Sole 24 Ore, ciao, bentornato. Ciao, grazie. Allora, buonasera. Per parlare invece appunto della periferica piazza italiana e nella fattispecie, in realtà, delle nostre banche, di Popolare Vicenza e di Veneto Banca, perché sono chiuse le operazioni, le offerte di transazione. Due banche, lo ricordiamo, per dare un'idea agli ascoltatori che non fossero, sappiamo che abbiamo in ascolto anche tanti azionisti di o ex azionisti di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Per darvi un'idea, fino all'estate 2014 le azioni di Pop Vicenza venivano offerte a 62,50 euro, l'aumento di capitale ad aprile 2016, e quindi un anno e mezzo dopo, fissa il prezzo delle azioni a 10 centesimi. Per quanto riguarda Veneto Banca, aprile 2014 40 euro, e sempre 10 centesimi per azione nella primavera del 2016. A fronte di questo, le due banche hanno tentato una transazione, per così dire, no? Con gli azionisti, che si è conclusa, diciamo, in chiaroscuro, nel senso, volevano arrivare all'80, no, Fabio? Sì, beh, del resto lì il calo di fiducia è devastante, nel senso che capisco anche quegli azionisti perplessi che magari non hanno aderito. Teniamo conto che sono state offerte ben due proroghe, perché doveva chiudersi a metà marzo, è slittata al 22 e poi al 28, perché come l'adesione non era entusiastica. Del resto, come non capire, cioè, ieri è uscito il bilancio 2016 da Popolare di Vicenza e stiamo aspettando Veneto Banca. Beh, diamo qualche numero. La Vicenza chiude quest'anno con 1,9 miliardi di perdite, 2014 1,4 miliardi, 2015 1,4 miliardi, 2014 no, 800 milioni. Se li sommiamo nei tre anni di crisi, quando l'azione poi fu svalutata e si scoprirono, come dire, la mala gestio di Zonina Vicenza e di Consoli e Veneto Banca, Vicenza ha perso 4 miliardi in tre anni. Allora, quando una banca mi perde 4 miliardi, e tuttora le condizioni delle due banche sono veramente molto critiche, cioè, forse pochi sanno, ma a fine dell'anno scorso la Banca di Vicenza non aveva più liquidità, cioè il liquidity coverage ratio, che è un indicatore di liquidità, era sceso al 37% dal 90 regolamentare. La banca ha dovuto emettere due bond da 3 miliardi 1 e da 2,2 di recente con la garanzia dello Stato, perché non pagava gli stipendi, cioè non aveva più liquidità per pagare le spese ordinarie. La raccolta è scesa ulteriormente, cioè la gente è fuggita, i ricavi sono scesi da 1,7 miliardi negli ultimi anni. Allora, tuttora la banca Vicenza ha 5 miliardi di crediti malati netti su un patrimonio di 2 miliardi. Noi abbiamo pubblicato l'altro giorno questo indicatore, si chiama Texas Ratio delle banche, dove questo indicatore, che sono le sofferenze in rapporto al capitale, quando superano il 100% suona un campanello d'allarme. Bene, la Vicenza tuttora ha questo rapporto al 220%, Veneto Banca sono in condizioni simili. Allora, qui non dobbiamo illuderci molto, cioè il disastro compiuto dalle malagestio di chi ha governato per 20 anni le due banche, Zonina Vicenza e Consoli e Veneto Banca, è lì tutto da vedere, ed ovviamente qualcuno ha dovuto salvarle. Prima Atlante, mettendo 2,5 miliardi, tra l'altro bruciati, perché sì, se perdi 1,9 miliardi, quel 1,5 miliardi messo a Vicenza è stato completamente bruciato in neanche 12 mesi. Allora lì il tema è che la banca continua a mangiarsi capitale, perché continua a avere una situazione di queste sofferenze che sono fuori controllo. Allora io mi aspetto, Atlante vuole rimanere in maggioranza, però hanno chiesto aiuto dello Stato, insomma lì bisogna anche capire cosa pensa Bruxelles e la UE, perché mentre nel caso Monte dei Paschi puoi chiedere l'aiuto, questa forma di ricapitalizzazione precauzionale, se sei solvibile, a Veneto e a Vicenza bisogna ancora capire se le banche sono solvibili. Sì. Ti segnalo su questo, Fabio, come si diceva prima, la notizia si fa per dire, perché una dichiarazione fornita da Anna Finocchiaro, ministro per i rapporti con il Parlamento, che ha risposto al Question Time per conto del ministro dell'economia per Carlo Padoan, dice: l'iter per la concessione degli aiuti di Stato alle banche venete è ancora in una fase iniziale, mentre Monte dei Paschi si trova in uno stato avanzato. Sì, sì, è proprio così. E qua, permettimi Fabio, arriviamo a quello che mi sembra essere lo snodo vero, che è lo snodo del tempo. Come sottolinea sulle pagine di Finanza e Mercati oggi anche Alessandro Graziani nel suo commento, dice: attenzione, qua la regolamentazione europea, i contrasti tra l'Europa e la BCE, le normative in campo stanno facendo sì che il tempo stia trascorrendo troppo lentamente prima di arrivare ad una, come dire, alla concretezza dell'aiuto Ma di infatti Stato. Infatti il tema è vero, è che il tempo in questo caso è più che denaro, cioè quando una situazione è malata in modo cronico dal 2015, in modo veramente eclatante, siamo a metà del 2017 e ancora non si capisce dove possono andare queste banche, perché il tema non è solo dargli il capitale adeguato, il tema è il business. Cioè, se tu perdi il 30% dei ricavi ogni anno e hai avuto una caduta di fiducia tale per cui la gente è letteralmente fuggita, e devi far tornare la gente agli sportelli primo, e poi devi inventarti forme di business che ridiano fatturato alle aziende bancarie. Se stai a cincischiare, nel senso che se perdi ulteriore tempo a trovare delle soluzioni, è ovvio che la situazione può solo deteriorare. Il fattore tempo è veramente cruciale, hai ragione. Se n'è perso anche tanto, perché ricordiamo che Atlante ormai è entrato da un anno in questa banca con i nuovi azionisti, che poi sono banche, che tra l'altro queste banche ti dicono, e c'è anche la CDP che è pubblica, dicono: io perché devo iniettare soldi che vengono bruciati per salvare due banche malate quando io sono sano? E c'è un rischio contagio, ecco perché poi uno dice lo scudo di Stato serve proprio a questo. Allora ti fermo Fabio e ti riprenderei subito dopo la pausa per GR24, proprio per dare un'idea del tempo. Forse vi è sfuggito nella quantità di dati che vi abbiamo dato. Nell'ultimo anno Pop Vicenza, la raccolta diretta di Pop Vicenza è scesa del 14,4%, ed è esattamente questo, è la gente che scappa perché ha paura, e quindi il tempo diventa cruciale. Ci torniamo tra un attimo e magari andiamo anche su MPS. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo è la stoccata, la conferma, la stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia, nella quale chiuderemo un po' il discorso sulle banche, chiuderemo, si fa per dire naturalmente per oggi, temiamo che non si chiuderà così facilmente come la trasmissione di oggi, e poi andremo finalmente a parlare della Brexit, che è sicuramente l'argomento di giornata. Per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, la chiusura di borsa per quanto riguarda il FTSE MIB è negativa, meno 0,26%, FTSE OCER meno 0,34%, positive invece le altre borse europee: Parigi più 0,45%, Francoforte più 0,44% e Londra più 0,41%. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, siamo in perfetto pareggio per quanto riguarda lo Standard & Poor's 500, e il Dow Jones cede lo 0,26. Dunque, le banche, sempre con Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, eravamo rimasti in sospeso sul tema del tempo, che è quello che veramente manca e quello che veramente crea problemi. Tanto sul Monte dei Paschi, sul quale molti ascoltatori ci fanno domande, ma appunto il tema è proprio quello: continuiamo ad essere là sospesi in una battaglia, una sorta di triangolo tra Banca Centrale Europea, Commissione Europea e governo italiano, e così presumibilmente sarà per Popolare Vicenza e Veneto Banca, Fabio, no? Sì, è proprio così, perché adesso la BCE e la Commissione dovranno appurare, in virtù delle cause, come dire, che verranno cancellate, se le due banche sono, come dire, solvibili a oggi. A questo punto, come dire, si può andare a questa ricapitalizzazione precauzionale che era stata intrapresa da MPS. Se invece BCE dovesse stabilire che le banche non sono solvibili, si apre, come dire, questa porta oscura del bail-in. Siamo in attesa anche noi, però davvero il problema del tempo è stato veramente sottovalutato, perché queste crisi hanno conclamate, perché, come dire, i primi scricchioli sulle banche venete datano dai bilanci del 2014. Zonine Consoli se ne vanno nel 2015, sono passati un anno e mezzo. È vero che non si fanno i miracoli, però è vero che, guardando, come dire, i fondamentali economici di queste banche, tu vedi un lento e progressivo deterioramento, figlio soprattutto dell'inerzia. Perché davvero la banca funziona come un meccanismo di fiducia, no? Se tu pensi che questa banca sia in difficoltà, non fai altro che cambiare banca, cioè non ci vuole nulla a prendere il conto corrente e a spostarlo, anche perché, ripeto, ci sono banche solide in Italia. Cioè, se si va a vedere la raccolta persa in Veneto, si scoprirà che banche come Intesa o il Credem hanno intercettato questa raccolta fuggita. Non è che la gente, se non ha Veneto Banca o Vicenza, non sa dove mettere i soldi. E però, quando hai questo deflusso, tu cominci a mandare in crisi la banca fa meno fatturato, a questo punto è costretta a fare altre forme di raccolta, le obbligazioni non le puoi più vendere perché ovviamente sono state vendute anche male, a quel punto ti va in crisi il meccanismo di raccolta di denaro e quindi poi a sua volta il meccanismo di prestito di denaro. Quindi la banca è veramente un animale difficile, cioè se la fiducia si incrina, se non intervieni subito, crei una sorta di effetto valanga dove la situazione non può che peggiorare. E veramente, se assistiamo ai bilanci messi in serie, perché Veneto Banca annuncerà una perdita intorno al miliardo, presumo, e anche lì Veneto Banca, se sommiamo le perdite nette delle due banche venete, io ho fatto dei calcoli, dal 2014 a ieri, al 2016, sono 7 miliardi sommate insieme, 4 alla Vicenza e circa 3 Veneto Banca. Capite che 7 miliardi di perdita netta, ti sei mangiato tutto il capitale due volte. E quindi siamo ancora lì, nel senso che tenete poi anche conto che la banca va pulita, cioè queste sofferenze sono molto alte, andranno lentamente metabolizzate o svalutandole o vendendole, e quindi ci sarà un ulteriore drenaggio di capitale. E quindi è un cane che si morde la coda, e capisco anche la difficoltà da parte delle banche che aderiscono ad Atlante a dire: ma io i soldi li metto ancora perché so che li perderò. E capisco anche le banche sane che hanno contribuito e dicono: ma le hanno anche svalutate le quote Atlante non a caso, e dicono: quei soldi li sto perdendo. Allora è giusto che banche che si sono salvate vadano a aiutare banche tradite dalla malagestio? Ma io dico no, perché poi è un effetto contagio. Ecco perché allora lo scudo salva banche del governo da 20 miliardi è opportuno che sia arrivato, doveva arrivare forse prima. Allora io ti ringrazio, grazie a Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, sempre chiaro e sempre molto netto su queste vicende. Noi adesso andiamo a chiudere con quello che, come si diceva, è sicuramente l'argomento di giornata, sul quale già ci stanno arrivando i vostri sms, i messaggi su WhatsApp, e che è la Brexit. Non lo so, l'avete scelta apposta la base? I wanna be free per la Brexit? Ah, va bene, no, è che... Oltre a condurlo ogni tanto sono anche un ascoltatore di Focus Economia, però non mi soffermo sempre su queste cose, su queste finezze. Dunque, la Premier britannica Theresa May ha firmato la lettera per la notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che nel momento della consegna al Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha segnato l'avvio formale dell'iter della Brexit, ossia dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. sancita dal referendum del 23 giugno scorso. Dopo 9 mesi il Regno Unito ha fatto la Brexit, dice il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter, dopo aver ricevuto dalle mani dell'ambasciatore britannico Tim Barrow la lettera che invoca appunto l'articolo 50. Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Buonasera Leonardo, ciao. Buonasera a voi. E Lorenzo Codogno, già capo economista del Ministero del Tesoro a Roma, ora fondatore della LC Macro Advisor, oltre che visiting professor alla London School of Economics. Buonasera Codogno, bentornato ai nostri microfoni. Buonasera a tutti. Io inizierei però facendo sentire un passaggio, giusto per dare l'idea di quello che succede, del primo ministro, la premier britannica Theresa May, proprio sulla Brexit, su come l'ha rappresentata in Parlamento, ossia non un fatto negativo, e insomma non poteva essere diversamente forse, però ha detto un'opportunità per un paese globale. Sentiamola. Today, the government acts on the democratic will of the British people. Oggi il governo ha agito secondo la volontà democratica popolare. Pochi minuti fa a Bruxelles, il nostro rappresentante permanente presso l'Unione Europea ha consegnato una lettera al Presidente del Consiglio Europeo, a nome mio, confermando la nostra decisione di invocare l'articolo 50 del trattato. Il processo previsto dall'articolo 50 ha avuto inizio e, seguendo la volontà del popolo britannico, il Regno Unito sta lasciando l'Unione Europea. È un momento storico, non si può tornare indietro. Lasciando l'Unione, noi prenderemo le decisioni che ci riguardano e faremo noi le leggi. Avremo noi il controllo delle questioni che sono per noi più importanti. Coglieremo questa opportunità per costruire un paese più forte e più giusto. In momenti come questo di svolta nella nostra storia, le scelte che prendiamo definiscono il carattere del nostro paese. Possiamo scegliere se dire che il compito che ci aspetta è troppo grande, guardare al passato e dire che non ce la faremo. Oppure possiamo guardare avanti con ottimismo e speranza. Io scelgo di credere nel paese e che i giorni migliori sono davanti a noi. Lasciare l'Unione Europea ci offre un'opportunità unica. Questa generazione ha la possibilità di creare un futuro più luminoso per il paese, la possibilità di chiederci che paese vogliamo. Io voglio che il Regno Unito emerga da questo periodo di cambiamenti più forte e più giusto. Voglio che sia un paese più sicuro, più prospero e più tollerante. Un paese che attiri i talenti internazionali e che sia la casa dei pionieri e degli innovatori che daranno forma al mondo che verrà. Voglio che sia un paese davvero globale, un amico fidato per i partner europei, un paese che va nel mondo rafforzando le relazioni con i vecchi amici e costruendone di nuovi con nuovi alleati. Che è un po' il manifesto politico di Theresa May per questa Brexit. I commenti di Codogno e di Maisano, e capire veramente quante di queste che al momento appaiono come delle belle speranze, anche a vedere come sta reagendo l'Europa, no? A questa Brexit, e i commenti di Codogno e Maisano, dicevo, dopo il traffico. Focus Economia. I wanna be free. Ma no, Domenico ci scrive su WhatsApp: la democrazia e la diplomazia hanno i loro rituali, glieli lasci. Come fa a pensare che attivino l'articolo 50 mandando un messaggio di posta certificata, una mail in posta certificata? Mandi la PEC per attivare l'articolo 50, su, il fatto che gliela consegni di persona l'ambasciatore a Tusk non mi sembra un problema. Allora Codogno, le parole che abbiamo sentito da Theresa May al momento appaiono, come si diceva, come delle speranze legittime, per carità. La possibilità di concretizzare queste speranze, ossia il rimanere dei partner affidabili per l'Europa, dare prosperità al paese, far sì che la Brexit sia un nuovo inizio, secondo lei quali sono? I toni che ha usato sono toni molto concilianti, e secondo me c'è stato anche un cambiamento negli ultimi mesi di strategia, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione. Detto questo, è chiaro che ha richiamato il principio di autodeterminazione, che è quello in base al quale gli elettori inglesi hanno deciso di separarsi dall'Unione Europea. Devo dire che ha detto molto chiaramente che il Regno Unito si separa dall'Unione, ma non dall'Europa, e quindi comunque ha intenzione di collaborare in maniera molto stretta, soprattutto su alcuni temi, ed è chiaro che la sicurezza viene al primo posto, e questo è stato richiamato molte volte. È chiaro che questo è uno dei temi su cui il Regno Unito vorrà collaborare in maniera molto stretta. Penso che saranno molti altri anche i temi sui quali il Regno Unito collaborerà in maniera molto stretta con il resto dell'Unione Europea in futuro. Teniamo presente tuttavia che questo è l'atto ufficiale, da qui si apriranno 2 anni di negoziati che saranno difficili. Adesso diciamo c'è la cortesia formale, domani ci potrà essere ovviamente uno scontro più forte sulle tematiche specifiche di questo atto di separazione, che inevitabilmente porterà delle controversie. Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, anche tu hai la stessa lettura, cioè hai letto un atteggiamento più morbido della May oggi? Negli ultimi giorni c'è stato un atteggiamento più morbido, sono assolutamente d'accordo, c'è stata una progressiva apertura. A mio avviso in realtà i passaggi sulla sicurezza e sulla difesa sono in realtà un irrigidimento, cioè se quei passaggi che la May ha ribadito nel corso del discorso che della lettera diventeranno una specie di merce di scambio sul negoziato commerciale, cioè noi vi continueremo, come dire, a collaborare ai massimi livelli su difesa e sicurezza, che sono tradizionalmente la forza britannica, anche per i grandi rapporti che ha con i servizi di sicurezza americani, se voi sarete concilianti sulla quota commerciale, questo è un inizio a gamba tesa, cioè nel senso che un negoziato che parte su una larvata minaccia, o quella che può apparire come una larvata, un larvato ricatto, diventa difficile. Resta da capire adesso se questa era la volontà. L'opposizione oggi in Parlamento ha spiallato letteralmente Theresa May su questa cosa, dicendo che era un ricatto, eccetera. Resta da vedere che piega prenderanno i negoziati, se ci sarà la volontà di collegare sicurezza e difesa a accordi commerciali. La cosa potrebbe essere più in salita di quello che si potesse immaginare. Del resto lo ricordiamo, è tutto interesse della Gran Bretagna, il 46% delle esportazioni britanniche sono dirette verso l'Unione Europea, e l'Unione Europea stessa rappresenta il 51% delle importazioni inglesi. Per dare una misura anche per quanto riguarda l'Italia, il Regno Unito è il quarto mercato per l'export italiano, vale il 5,4% dell'export, e nel 2015 l'interscambio commerciale è stato di 33,1 miliardi di euro, quindi appunto anche un partner commerciale importante. A questo punto dobbiamo definire così, nel senso che nel giro di 2 anni le cose si risolveranno anche per l'Unione Europea, dobbiamo trattarla da partner commerciale, no? A questo punto sostanzialmente come se fosse un esterno. Tra le altre cose tornerei a Codogno, c'è esattamente questo che è veramente il tema di fondo, no? I due aspetti che sono un pezzo di questa trattativa: da una parte la libera circolazione dei cittadini, dall'altra la libera circolazione delle merci, che sono se vogliamo i veri snodi, anche se come elemento di trattativa ci ricordate sia lei che Leonardo Maisano, c'è questo elemento della difesa e della sicurezza. Questi sono i due snodi però centrali e più appariscenti, se vogliamo. Nel discorso stesso di Theresa May è stato riconosciuto che non si può prendere questi elementi alla carta, per così dire, no? Quindi sono 4 libertà fondamentali, non si può scegliere quella che si vuole, quella che non si vuole lasciare da parte, ovvero l'immigrazione, quindi la libertà del movimento delle persone. E quindi è chiaro che si apre una fase abbastanza complessa, perché su certe cose il Regno Unito ha tutto l'interesse a mantenere un'apertura assoluta. Ha ribadito Theresa May oggi che l'obiettivo fondamentale per il Regno Unito è quello di mantenere un'apertura commerciale non solo con l'Europa ma anche con tutto il mondo. Quindi non c'è, come dire, una tendenza anti-globalizzazione come abbiamo visto ad esempio negli Stati Uniti. Questo è assolutamente contro l'interesse e anche i principi fondamentali che guidano la politica nel Regno Unito. Tuttavia questo sarà problematico con l'Europa, perché se non ci sarà un accordo nei tempi previsti si ricadrà automaticamente nelle cosiddette regole WTO, dell'Organizzazione Internazionale per il Commercio, e questo ovviamente non sarebbe una situazione ideale per l'interscambio. Quindi si apre una fase molto difficile, le trattative saranno a mio avviso lunghe e dureranno forse più di 2 anni. Codogno, brevemente, lei la vede negativa in assoluto o in dipendenza da quello che succede con questi negoziati? Ma io direi che per il Regno Unito l'evento di separazione è decisamente negativo, comunque lo si voglia guardare. Può essere pesantemente negativo, può essere solo marginalmente negativo, questo dipenderà da come verranno condotte le trattative, come sarà la situazione a regime e quali saranno le altre azioni di policy che verranno introdotte nel Regno Unito, perché teniamo presente che questa è una variabile, ma ce ne sono tante altre nell'economia internazionale e nell'economia inglese. Leonardo Maisano, a chiudere, tu oggi sei stato agli incontri, quantomeno alle dichiarazioni stampa, degli italiani che sono venuti là, che sono nella fattispecie il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, il sindaco di Milano Sala, il presidente della regione Lombardia Maroni, il ministro degli esteri Alfano. Il tentativo è di attrarre quanto più possibile, no, in Italia di quello che uscirà post Brexit. Al di là delle dichiarazioni, vorrei capire che segnali hai percepito soprattutto dal lato britannico, dal lato degli interlocutori, per così dire. C'è interesse, cioè, dire, si apre di colpo uno scenario nuovo, perché al di là di quello che potrà accadere alla City, che resta ancora una grande incognita legata ai negoziati, ci sono due agenzie che devono andare via, l'European Banking Authority e l'EMA, l'agenzia dei farmaci. Su questa seconda in particolare tutti i ministri e amministratori italiani oggi hanno insistito, perché chiaramente l'EMA, la European Medicine Agency, è nel mirino degli italiani. Si sa, potrebbe avere una collocazione a Milano e Milano è in realtà in una posizione buona, è un negoziato da fare presto, perché finirà sul tavolo, come dire, dei 27 fra breve, e Milano potrebbe davvero avere delle chance sull'EMA. Per quello che riguarda l'EBA, in naturale, inevitabilmente francofono. Certo. Certo. Leonardo, però ti stiamo perdendo completamente dal punto di vista della linea e tra l'altro dobbiamo chiudere i ringraziamenti. Grazie dunque a Leonardo Maisano, grazie a Lorenzo Codogno, grazie ad Andrea Roccabella in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo come sempre domani alle 13 con Effetto Giorno. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24, libera la voglia di fare.